E allora, rieccoci su Silenzio Assordante. Questa volta abbiamo una corrispondenza con un avvocato. E Flavio, ci senti? Sì, mi sento. Benissimo. E guarda, volevamo rubarti questi minuti che ci stai concedendo, chiedendoti se riesci a darci un quadro un po' lucido di quella che è la situazione, diciamo, dal punto di vista della normativa della giustizia in questo momento, nel senso cosa si sta muovendo realmente, quali sono le possibilità reali di uscire, se realmente qualcosa si sta muovendo a livello istituzionale rispetto all'emergenza Covid in carcere. Allora, sì, ciao a tutti e tutte. Allora, per quello che riguarda chiaramente lo stato, diciamo, della politica, ovvero delle decisioni che prenderanno, chiaramente non essendo un politico non posso esprimermi. Quello che posso dire è lo stato attuale della normativa, come ben sapete, assolutamente impedisce di fatto a circa 15.000 detenuti con una pena residua inferiore ai 2 anni di poter vedersi beneficiati di una detenzione domiciliare, in primo luogo perché sapete che sono tanti gli esclusi, perché se il reato in espiazione rientra tra quelli previsti dal 4 bis, automaticamente ne sono esclusi, e tra l'altro anche tutto il dibattito tende ad assecondare questa decisione governativa, perché anche i più illuminati, c'è un grande dibattito, diciamo, al di fuori del Parlamento tra professori universitari, associazioni di magistrati, procuratori generali presso la Corte di Cassazione. Poi, se volete, possiamo andare ad analizzare ognuno di questi interventi che cosa effettivamente prevede, però di fatto tutti quanti tendono ad escludere dai possibili beneficiati di una detenzione domiciliare le persone in espiazione per reati rientranti nel 4 bis, per cui di fatto una larga percentuale di queste 15.000 persone, perché ad oggi si parla al massimo di questo, cioè ovvero di un'estensione di detenzione domiciliare fino a 2 anni, ad esempio questa è la proposta che viene avanzata dall'ANM, dall'Associazione Nazionale Magistrati. Sapete qual era il decreto Cura Italia, decreto 18 del 2020, ha previsto che fino per le pene residue in espiazione fino a 18 mesi è possibile beneficiare di una misura alternativa al carcere, che è sostanzialmente la vecchia 199, seppur rivista e sostanzialmente con un passaggio in meno di quella che è la procedura per poter effettivamente beneficiare del provvedimento. L'ANM richiede che quantomeno vi sia un'estensione a 2 anni di residuo pena, per cui i numeri dei soggetti possibilmente beneficiati da questa concessione sale a circa 15.000 persone, e ciò potrebbe anche consentire, rispetto ai numeri attualmente della popolazione tenuta, di scendere al di sotto di quello che è la soglia massima di soggetti detenibili, che sono circa 49.000. Noi siamo circa 10.000, sapete perfettamente i numeri, penso che li abbiate già riferiti, non ho avuto modo di ascoltare la trasmissione, per cui non so effettivamente cosa abbiate già detto voi, però diciamo, i numeri sono noti dei soggetti che effettivamente sono attualmente ristretti nelle carceri italiane, quelli che sono in soprannumero, quelli che potrebbero effettivamente uscire in base ai decreti già approvati, già emanati, e pertanto la possibilità, se effettivamente si arrivasse ad includere le persone fino a 2 anni come residuo pena, effettivamente si potrebbe scendere anche al di sotto della soglia massima dei soggetti detenibili nei carceri, nei penitenziari italiani. E questo esempio è la proposta dell'ANM, ma tutti quanti, compreso anche l'auspicio del procuratore generale, che nonostante abbia comunque dato delle indicazioni che sono teoricamente migliorative, progressive rispetto all'attuale stato delle interpretazioni del diritto in Italia, comunque tendono sempre tutti, diciamo, ad escludere i soggetti in carcere per reati rientranti nel 4 bis, per cui chiaramente una quota parte, per cui di queste 15.000 persone comunque sia non potrebbero comunque beneficiarne. Il fatto vero è che, sapete, mancano i braccialetti elettronici, il governo ha imposto prima per tutte le pene superiori ai 6 mesi come residuo pena di imporre il braccialetto elettronico, poi il dibattito è arrivato fino a 1 anno, però sempre indicando che è a facoltà del magistrato di sorveglianza valutarlo, e poi dai 12 ai 18 mesi comunque obbligatorio. Fatto sta che i braccialetti elettronici non si trovano, per cui c'è anche una nota delle Camere Penali di Napoli che appunto denuncia questa condizione. Sono tantissime, sono centinaia le persone che potrebbero beneficiare comunque della detenzione domiciliare anche con il braccialetto elettronico, in realtà rimangono in carcere perché il braccialetto elettronico non c'è. Tant'è vero che in questa nota del procuratore generale Salvi, procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si chiede di dare un'interpretazione coerente con delle indicazioni che sono già state espresse dalla Cassazione, ovvero che anche in mancanza di braccialetto elettronico comunque il magistrato può valutare se poter dare la detenzione domiciliare anche in mancanza. In quel caso si parla di arresti domiciliari, in questo caso ci sarebbe chiaramente un'interpretazione analogica. Sostanzialmente quindi consentire la detenzione domiciliare anche a soggetti che astrattamente dovrebbero essere posti con il braccialetto elettronico, però in mancanza dello stesso non precludere il beneficio, non precludere questa possibilità alle persone, tra l'altro in una condizione di emergenza da coronavirus, perché stiamo parlando di tutte norme che dovrebbero avere comunque un... e dovrebbero essere lette alla luce di un diaframma che è quello comunque di delle lenti prospetti, che sono quelle di una situazione assolutamente emergenza da un punto di vista epidemiologico. Quindi da quello che ci sta dicendo, ci sono numerosi voci interne all'istituzione stessa che non concordano con quella che è, diciamo, la linea di buona fede? Sì, bisogna intenderci che cosa sono le istituzioni. Chiaramente questo deriva da una vecchia concezione illuministica, cioè una tripartizione dei poteri dello Stato, e dalla parte della magistratura soprattutto la magistratura associata, ma non solo, vi sono autorevoli interventi, tra cui anche il CSM, ma anche il Consiglio Nazionale Forense, che si è espresso nel tentativo di creare pressione sul governo affinché vi siano degli emendamenti a questo decreto che prevedano, diciamo, o situazioni più semplici o automatismi. Ad esempio, tutti coloro che hanno una pena residua inferiore a 6 mesi devono uscire, punto, cioè senza alcuna valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza. Ciò chiaramente consentirebbe immediatamente di permettere ad alcune residibili, cioè chiaramente in numeri ristretti, però alcune migliaia, 2-3 mila persone potrebbero immediatamente uscire dal carcere senza passare attraverso una valutazione discrezionale, che in quanto discrezionale deve essere chiaramente presa in considerazione, meditata da un magistrato con tutti i ritardi comprensibili in termini di concessione, di tempestività della concessione. Sì, c'è sicuramente, ci sono anche autorevoli interventi, autorevoli prese di posizioni che tendono a sollecitare il governo o le forze politiche, ai noi che però sappiamo non particolarmente coraggiose in questa materia, come in altre d'altronde, però a modificare quello che è stato visto da tutti come sostanzialmente il collo di un imbuto, una strettoia, per cui al di là dei proclami di voler attenuare la pressione presente nelle carceri così da poter permettere quel distanziamento, forse meglio sarebbe più politicamente corretto di un distanziamento personale che non sociale, che invece magari ai poteri potrebbe essere più interessante a questa declinazione, però effettivamente è un distanziamento personale, per cui consentire di avere maggiori spazi negli istituti da poter permettere anche agli stessi detenuti comunque di avere meno possibilità di contagio. Questo dibattito esterno sembra non trovare, ai noi, una grande capacità di essere recepito da parte della politica, da parte delle forze politiche, tantomeno da quelle governative. Questo sappiamo, ma anche perché immagino ne avrete parlato anche voi, alcuni di questi partiti sono andati al governo, comunque hanno ottenuto un grande riscontro da un punto di vista elettorale proprio sulle parole d'ordine come certezza della pena, effettività della pena, bisogna pagare, bisogna fino all'ultimo giorno, no? E a noi adesso si trovano anche loro impediti, immaginiamo anche da un minimo di coerenza che dovranno esprimere dall'assumere provvedimenti che in una situazione del genere, ovvero in piena emergenza sanitaria, sarebbero auspicabili. Considerate che ci sono anche alcune prese di posizioni a livello internazionale, cioè stiamo parlando ad esempio della la Corte Europea per la salvaguardia dell'uomo, ritenendo che una pena... Esatto, io ti avrei chiesto esattamente questo, te hai notizia, contezza di detenuti che si sono rivolti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, di cosa stia avvenendo? Sì, ci sono diversi ricorsi, lo posso dire questo perché tra l'altro poi fortunatamente il caso che avrei voluto avanzare io poi fortunatamente è uno dei pochi che da Rebibbia è uscito, per cui che ha beneficiato poi alla fine della detenzione domiciliare in virtù del fatto che una liberazione anticipata che non gli veniva concessa da mesi è stata finalmente riconosciuta, e pertanto il suo fine pena si è ulteriormente ridotto ed ha potuto scontare automaticamente la liberazione anticipata quel residuo di reato ostativo, e pertanto il reato non ostativo, che era inferiore in questo caso a 18 mesi, ha fatto sì che lo stesso sia uscito dal carcere. Per cui lo stavo preparando anch'io. Sì, tra l'altro oggi lo pubblica anche Il Dubbio, che è questo quotidiano del CNF, che è degli avvocati, diciamo tra virgolette, che dà conto proprio di io vi posso dire che sono diversi, perché anche per i CPR è stata avanzata, perché si ritiene che la detenzione in questo momento con le caratteristiche di detenzione in Italia, ovvero il sovraffollamento, in una situazione di emergenza sanitaria, leda l'articolo 3 della CEDU, cioè ovvero della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ovvero che integra quelle pene che sono inumane, degradanti, che sono fortemente violative comunque dei diritti umani. Su questo presupposto vi sono stati tanti ricorsi, forse uno dei primi su cui si dovrà esprimere la Corte Europea per i diritti dell'uomo dovrebbe essere proprio immediatamente dopo Pasqua. Ha chiesto dei chiarimenti anche al governo per comprendere effettivamente che cosa stia facendo il governo italiano per i detenuti nonché per gli immigrati ristretti nei CPR, proprio per evitare che quei luoghi di detenzione diventino poi luoghi di diffusione del virus, di diffusione del contagio. Però ancora, diciamo, ad oggi ancora non si è espressa, però sono diversi ricorsi, sicuramente sono stati presentati. Vedremo, perché potrebbe essere importante, chiaramente, perché è una misura, cioè che si richiede un provvedimento d'urgenza alla CEDU, pertanto i tempi anche in cui si deve esprimere la Corte sono molto molto brevi, e pertanto già nella seconda decade di aprile potremmo avere un provvedimento autoritativo, cioè un coattivo sul governo italiano, perché è chiaramente uno dei firmatari della convenzione e sui quali la Corte ha potere di intervento sicuramente su singoli casi, cioè ovvero sui casi aditi, sui casi di ricorso, però certamente poi essendo una dimensione comune a quella dei detenuti o dei ristretti nei CPR, certamente potrebbe avere poi un effetto dirompente, diciamo, anche sulle dinamiche politiche nonché sul dibattito stesso. Ok, chiarissimo. Ascolta, io come ultima domanda ti chiederei se te, o magari anche sentendo i tuoi colleghi, ti sei fatto più o meno un'idea di quelli che sono i numeri dei detenuti che sono riusciti ad uscire grazie, diciamo, a questo decreto Cura Italia, quindi da quando è iniziata questa emergenza Covid? Diciamo come esperienze personali chiaramente non potrebbero mai essere indicative. Se anche un avvocato avesse uno, due, tre propri assistiti, non vorrebbe dire che questo sia una statistica, chiaramente, per cui ci sono dei numeri che vengono forniti, cioè, diciamo, ci sono dei dati che sono conosciuti, che sono diffusi, che parlano appunto di comunque pochissime decine, cioè pochissime centinaia comunque di soggetti che effettivamente hanno beneficiato ad oggi di questa detenzione, questa misura alternativa. Stiamo parlando di, cioè, da una parte la necessità di una valutazione discrezionale dei magistrati di sorveglianza, dall'altra parte la mancanza chiaramente dei braccialetti elettronici, dall'altra parte l'esclusione per reati ostativi, e chiaramente stiamo parlando di una difficoltà anche a rendere effettivo, cioè sostanzialmente quello che ha fatto il governo è imbrigliare le stesse mani, o comunque rimettere nelle stesse mani di coloro che sono, perdonate ma è così, i responsabili di queste situazioni di sovraffollamento, ovvero la magistratura di sorveglianza, rimettere la palla agli stessi magistrati di sorveglianza, concedendogli la stessa discrezionalità e non obbligandoli a misure determinate, ovvero quelle che dicevamo prima: se c'è una pena inferiore ai 6 mesi i soggetti escono, punto. Non facendo questo, e per cui dando sempre una possibilità discrezionale anche di non concedere, quindi di negare un provvedimento come la detenzione domiciliare in virtù di un pericolo di recidiva e quant'altro, sappiamo la magistratura di sorveglianza normalmente non brilla per coraggio, ossia hanno sempre timore di essere loro poi essere posti sotto processo qualora poi la persona che beneficiasse del provvedimento favorevole dovesse reiterare i reati, magari anche i reati che avessero clamore mediatico, rende per cui una valutazione certamente cum granum salis, in maniera molto attenta, in maniera molto scrupolosa, che fa sì che poi i tempi si dilatino e tantissimi sui quali non sia possibile effettivamente esprimere un giudizio rassicurante in ordine al rispetto della detenzione domiciliare, magari vedersi anche negati il provvedimento. Questo è il caso proprio verosimilmente, poi non lo conosco direttamente, però leggendo l'articolo del Dubbio sembra proprio il caso che veniva narrato all'interno di questo articolo, ovvero di una persona che evidentemente non aveva un reato ostativo, aveva una pena inferiore a 18 mesi, a cui comunque il magistrato aveva ritenuto di negare la detenzione domiciliare. Poi sì, si può fare reclamo, si possono fare tante cose, però poi di fatto i tempi si allungano, i giorni passano, l'emergenza c'è, la possibilità di essere chiaramente contagiato, per cui da qui la necessità di questo ricorso con urgenza compiuto dagli avvocati difensori di questo detenuto. Va benissimo, Flavio, noi ti ringraziamo molto, ti chiediamo ovviamente di rimanere a disposizione nel caso in cui qualcosa cambi, o che di contattarci se sai che qualcosa sta cambiando, se ci sono delle modifiche a quella che è la situazione attuale. E ti sì, io posso dire, guarda, volevo concludere proprio con una chiosa che è veramente, dal mio punto di vista, è encomiabile la capacità di resistenza della popolazione detenuta in questo paese, perché che questa situazione in cui sono sottoposti sia certamente foriera, cioè possa favorire la diffusione del contagio tra loro stessi, cioè non lo diciamo noi, non lo dite voi, non lo dico io, non lo dicono solamente queste associazioni o comunque un associazionismo nazionale, lo dicono autorevoli istituzioni internazionali, e a fronte questo è un pericolo a cui loro sono esposti, tutto sommato il contegno sembra di persone che credano molto nelle forze politiche e nelle soluzioni che possano adottare nei prossimi giorni. Incredibilmente, cioè un'attesa speranzosa, senza, cioè probabilmente in altri anni, in un più o meno lontano passato, che avrebbe dato vita a rimostranze molto rumorose. Beh, sicuramente ci sono state sicuramente delle rivolte molto importanti nei giorni passati, e la repressione è stata piuttosto brutale. Quello che assolutamente stupisce è quel muro di silenzio che si è creato intorno in questi giorni. Quello che hanno visto sicuramente lor signori è che si è propagandato anche grazie ai report mediatici, tant'è vero che negli ultimi 10 giorni non c'è una televisione di massa che sta parlando e che sta affrontando questo tema in un determinato modo, e è stato calato un sipario su tutta la faccenda carceri, e quindi come al solito sta a noi tutte e tutti impegnarci e far sì di provare a buttare giù quel muro di gomma, insomma. Sì, ma sta anche ai diretti, diciamo, ai diretti interessati far sì di alzare quanto, non è un appello a chissà quali forme, no, le più roboanti immaginabili, però forme di manifestazione palese di una contrarietà o comunque di un condiscendere a quello che è questa stasi incredibile in cui si sta tenendo da oltre un mese una popolazione detenuta che già non dovrebbe essere detenuta in queste forme, perché l'ultima sentenza Torreggiani di qualche anno fa, con cui l'Italia fu sanzionata proprio per la violazione di regole basilari nei confronti dei detenuti, proprio dei diritti fondamentali, perché tant'è vero il dibattito si sviluppò proprio intorno alle condizioni di pena, di detenzione, e che per cui già in questa condizione, oggi in più in una situazione in cui a noi popolazione esterna, a noi tra virgolette liberi, ci viene imposto di non uscire di casa, di stare a distanze di sicurezza, di non parlare, di non toccarsi, di non sfiorarsi, di non poter andare dal barbiere, di non poter andare cioè di non poter svolgere una vita normale, e poi c'è qualcun altro invece che può stare come un carro bestiame. Questa è poi ciò che stride, no? Ciò che stride, e non lo diciamo come al solito noi, ma lo dicono anche autorevoli, soprattutto istituzioni internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa, che si è espresso proprio in questi termini, anzi auspicando ad esempio nei CPR che le persone venissero rilasciate, proprio perché intanto c'è l'impossibilità di espellerli. CPR sono soggetti che devono stare trattenuti in vista di una loro identificazione e poi di una loro espulsione, ma intanto se non li puoi espellere perché praticamente non c'è vettore aereo che transiti nei diversi paesi, tutti i paesi sono chiusi, è chiaro che intanto è inutile trattenerli perché non li puoi espellere. Ma come al solito non è una presa mia, una presa di posizione mia individuale, ma appunto lo dice l'alto commissario del Consiglio d'Europa che si occupa di diritti umani. Comunque, questo era giusto per concludere. Va benissimo, ti ringraziamo molto. Grazie a voi. A presto. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, un abbraccio. Ciao. E allora, bene.